Mancano davvero pochi giorni a Natale, una festività che ha da sempre un legame molto speciale con la musica e che è accompagnata da diversi costumi e celebrazioni che cambiano da paese a paese. Nella tradizione cristiana il Natale celebra la nascita di Gesù, ma nel corso dell'ultimo secolo questa festività è entrata a far parte della tradizione, assumendo significati diversi da quello religioso. Dal momento in cui il Natale è alle porte, cosa c'è di meglio della musica per evocare lo spirito natalizio? Le canzoni sono caratterizzate da melodie ritmate, dal suono di campanelli e da testi allegri che parlano di neve, nascituri divini e doni. A proposito di doni, la casa di Babbo Natale si trova in Finlandia, a Rovaniemi, e la canzone per eccellenza che si ascolta nel villaggio di Babbo Natale è Porsaita Aidin, un pezzo con un testo molto particolare in cui viene ripetuto più volte che siamo tutti madri di porcelli. Si pensa che possa essere un modo per sdoganare atteggiamenti più libertini del solito a causa dell'alcol e delle feste di Natale aziendali. Porsaita äidin, oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki. Kaikki. Sinä ja minä. Muuskrissa reivi, allihuppa. Muuskrissa reivi, allihuppa. Oomme kaikki. Porsaita äidin, oomme kaikki. Sinä ja minä. Arriviamo poi in Francia, dove le celebrazioni iniziano il 5 dicembre, ma il momento più importante è la vigilia di Natale, in cui le campane delle chiese e le persone cantano Petit Papa Noël, la canzone che accompagna l'arrivo di Babbo Natale, cantata dalla prospettiva di un bambino che spera che Babbo Natale non si dimentichi di lui. Et quand tu seras sur ton bout, Il Natale in Inghilterra è freddo, umido e nebbioso, ma Deck the Halls con la sua melodia orecchiabile scalda i cuori di tutti. Questa canzone si rifà a un pezzo gallese del XVI secolo e le parole furono aggiunte nell'Ottocento. Ancora oggi è una delle canzoni natalizie più popolari nel mondo anglofono e non solo. Il Natale italiano si festeggia sulle note di Astro del Ciel, un brano che ha origine tedesca. Pur mantenendo la stessa base musicale, il testo però non è una semplice traduzione, bensì è una creazione di Angelo Meli. C'è poi Tu scendi dalle stelle, un brano che si sofferma sull'aspetto religioso, composto a metà del Settecento dal vescovo campano Alfonso Maria de Liguori. E la versione più famosa ed emozionante ci è stata regalata da Luciano Pavarotti. Passiamo poi a una canzone più recente, Natale, di Francesco De Gregori. Un pezzo questo dal ritmo dolce che ci racconta le feste dal punto di vista di una persona adulta. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi se ti viene la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi, che dormi e che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce ed il tempo corre piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male, buonanotte, torna presto, così sia. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi, che dormi e che sogni che fai. Ma cosa succede negli altri continenti? In Australia il 25 dicembre corrisponde alle vacanze estive e molte feste natalizie si svolgono all'aperto. L'evento popolare più importante è il Carols by Candlelight, in cui le persone si riuniscono di notte per accendere candele e cantare canti natalizi come White Wine in the Sun, mentre si aspetta la slitta trainata dai 6 canguri bianchi di Santa Claus. It's sentimental, I know, but I just really like it. I'm hardly religious. I'd rather break bread with Dawkins than Desmond Tutu, to be honest. And yeah. guess I have all of the usual objections to consumerism, to the commercialization of an ancient religion, to the westernization of a dead Palestinian press ganged into selling PlayStations and beer. But I still really like it. I'm looking forward to Christmas, though I'm not expecting a visit from Jesus. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I don't go in for ancient. I don't believe just 'cause ideas are tenacious, it means that they're worthy. I get freaked out by churches. Some of the hymns that they sing have nice chords, but the lyrics are dodgy. And yes, I have all of the usual objections to the miseducation of children who in tax-exempt institutions are taught to externalize blame and to feel ashamed and to judge things as plain right or wrong. But I quite like the song. Expecting big presents. The old combination of socks, jocks, and chocolates is just fine by me. 'Cause I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. And you, my baby girl, my jet-lagged infant daughter, you'll be handed round the room like a puppy at a primary school, and you won't understand, but you will learn someday that wherever you are and whatever you face, these are the people who make you feel safe in this world. My sweet blue-eyed girl. Christmas comes around, and you find yourself 9,000 miles from home. You'll know whatever comes. Your brothers and sisters, and me and your mum will be waiting for you in the sun. Your aunts and your uncles, your grandparents, cousins, and me and your mom will be waiting for you in the sun, drinking white wine in the sun. Darling, when Christmas comes, we'll be waiting for you in the sun, drinking white wine in the sun. In Nuova Zelanda il Natale si festeggia sulle melodie di Pukeko in Apoga Tree, una versione maori di The 12 Days of Christmas. Questa canzone rappresenta un modo festoso per allenare la memoria, perché il testo si basa su 12 versi, ciascuno costruito sul precedente. Arriviamo poi alle tradizioni natalizie statunitensi, che riflettono il carattere multiculturale del paese e sono state introdotte dagli immigrati provenienti dalle isole britanniche. A riunire le diverse culture è il brano White Christmas, cantato da Bing Crosby. Questa canzone rappresenta il sottofondo musicale perfetto negli Stati Uniti. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. In America Latina invece si ascolta El Burrito de Belén, una canzone che parla di un viaggio a Betlemme su un piccolo asinello per vedere il bambino Gesù. Bye. In Messico a Natale è normale ricordare i momenti in cui le famiglie si riuniscono e nel rispetto dei parenti assenti ascoltano musica che piaceva loro suonare nelle festività di dicembre. Un esempio è El Año Viejo di Tony Camargo, una canzone iconica per il ritmo e le parole. Una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Mira mulata, ay qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Pero, pa', ay qué sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra. Queste sono solo alcune delle canzoni di Natale dal mondo. Sono tante, originali e diverse tra loro, ma tutte con un denominatore comune: l'amore, la gioia e la voglia di celebrare questa festività tra musica, suoni e sorrisi.